magliette, tu sei addosso. Tu sei addosso. Addosso, tu cuore in grado che un dispiette, farmene un po'. Addosso, lo fuoco cace masse fuie, e lassa star. E non te corra presso e non destruie sulla guarnà. Yamme, yamme, goppa, yamme, yamme, yamme, goppa, yamme, yamme, funiculi, funicula, funiculi, funicula, goppa, yamme, yamme, funiculi, funicula. Se ne si aiuta in se ne si aiuta la capacia. La capacia. E chiuda, poi tornata, poi venuta, sta sempre a ca. Sta sempre a ca. A capa, vota, vota, torna, attorno, attorno a me. Lo cuore canta sempre no d'amorno, sposammo in e. Iamme, iamme, goppa, iamme, iamme, iamme, goppa, iamme, iamme, funiculi, funicula, funiculi, funicula, goppa, iamme, iamme, funiculi, funicula. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Pensiero, niente voglio, niente spero, che te ne te sembra a fianco a me. Si sicuro che sta amore, come so sicuro te. Prima l'urdevo sarai per me. Quanta notte non te veco, non te senti in tasti braccia, non te vaso questa faccia, non ti stregne forte in braccio a me. Ma scetanna ma sti suona, ma fai chiagnere per te. Oi, vita, oi, vita mia, oi, cuore di Cristo cuore, sei stato primo amore, e prima l'urdevo sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso da te sola, non pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. Ah, che un belle tutte belle, non è mai che un belle te. L'urdevo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, sei stato il primo amore, e il primo l'urdevo sarai per me. soli è già spuntato un giallo mari. E voi, Biduzza mia, dormite ancora. L'accendi sonno stanchi di cantari e affrettati v'aspettano qua fora sopra suo balconetto sopposati e aspettano qua ne cava faccia. Sto vanetto ci sogno puro io caspetto a voi e vedere sa faccia così bella passo caffè. Quando spunta la luna a mare chiare, la passione piange tuzzulea. Lugano fa ancora, tinta la testa, passa l'acqua per sotto e mormolea. A mare chiare in cesta la finestra. C'è sta la finestra. Chi dice che le stelle son lucente non sa per suo che cato tiene in fronte. Stindo le stelle risaggia solamente chi in tal cuore ne tengo di ponte. Chi dice che le stelle son lucente. Scetate caroli per l'aria e doce quando mai è tanto tempo già aspettate. Accompagnare i suoni con la voce stasera la chitarra già portata. Cercate caroli che l'aria è dolce. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. fresca era l'aria e tutto luciardino adorava de rosa accendevasse. Era de maggio, io no, non me ne scordo, la canzone cantava a due voci. Che il tempo passa e che io me la ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. Guardarti lo spartire. nada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar. Conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amor. Darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es mañana de lindas mujeres, de sangre y de zeffiro così soave.

e per la vita non ti lascio mai più. Senza Caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare. Pulacenella, pulacenella, popola po, se portati qua la tella, una resella, l'ariola. E mosta tarantella, nessuna va a cantare, gemò pulacenella, e chiamma l'altro qua. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che stu botta botta, nana cava da gira, e stu mondo che da pazzia. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che sta vita fa, zucchete in su, zucchete in su. È dormuta una muratella come si bella napolena, tiene sempre una bocchella, tiene fuoco e verità. Tu sei una figliolella, casa da marità, insieme a pure cianella, e chiama la figlia. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che stu botta botta na la gaga da gira, e stu mondo da la pazzia. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che sta vita fa, zucchete in su, zucchete in su. Marina. riposa e domani, quando l'alba svegliarti verrà, sopra lidi lontani, lontani, l'infelice nocchiero sarà. Ma tu dormi e non pensi al tuo fido, ma non dorme chi vive d'amore. Io la notte a te volo sul lido, ed il giorno a te volo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sento sul viso il tuo respiro, stringiti forte a me, non chiederti perché la sera scende già, la notte impazzirò. Silenzio breve.